ad alta voce, leggere il Decamerone. Sir Ciappelletto, seconda parte. Queste parole piacquero molto al santo uomo e parvongli argomento di bene disposta mente. E poiché a Ser Ciappelletto ebbe molto commendato questa sua usanza, il cominciò a domandare se egli mai in lussuria con alcuna femmina peccato avesse. Al quale Ser Ciappelletto, sospirando, rispose: ah, padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il vero, temendo di non peccare in vanagloria. Ma di sicuramente, che il vero dicendo, né in confessione né in altro atto si peccò giammai. Poiché voi di questo mi fate sicuro, e io il vi dirò. Io son così vergine come io uscì del corpo della mamma mia. Ah, benedetto sei tu da Dio, come bene hai fatto! E facendolo hai tanto più meritato quanto volendo avevi più dal vitrio di fare il contrario. E non abbiam noi, e qualunque altri son quelli che sotto alcuna regola son costretti. E appresso questo il domandò se nel peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto. Al quale, sospirando forte, Ser Ciappelletto rispose di sì, e molte volte, perciò che con ciò fosse cosa che egli, oltre agli digiuni delle quaresime che nell'anno si fanno dalle divote persone, ogni settimana almeno 3 dì fosse uso di digiunare in pane e in acqua, con quello diletto e con quello appetito l'acqua bevuta aveva, e specialmente quando avesse alcuna fatica durata, o adorando o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran bevitori il vino, e molte aveva desiderato d'avere cotali insalatuzze d'erbucce come le donne fanno quando vanno in villa, e alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per devozione come digiunava egli. Al quale il frate disse: figliol mio, questi peccati sono naturali e sono assai leggeri, e perciò io non voglio che tu ne gravi più la coscienza tua che bisogni. A ogni uomo avviene, quantunque santissimo sia, il parergli dopo lungo digiuno buono il manicare e dopo la fatica il bere. Oh, padre mio, non mi dite questo per confortarmi. Ben sapete che io so che le cose che al servigio di Dio si fanno si devono fare tutte nettamente e senza alcuna ruggine d'animo, e chiunque altramenti fa, pecca. E io son contento che così ti cappia nell'animo, e piacemi forte la tua pura e buona coscienza in ciò. Ma dimmi, in avarizia hai tu peccato desiderando più che il convenevole o tenendo quello che tu tener non dovesti? Oh, padre mio, io non vorrei che voi guardasti perché io sia in casa di questi usurieri. Io non ci ho a far nulla, anzi ci era venuto per dovergli ammonire e gastigare e torgli da questo abominevole guadagno. E credo mi sarebbe venuto fatto se Dio non m'avesse così visitato. Ma voi dovete sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere come egli fu morto, diedi la maggior parte per Dio. E poi, per sostentar la vita mia e per potere aiutare i poveri di Cristo, ho fatte mie piccole mercatantie e in quelle ho desiderato di guadagnare. E sempre, co poveri di Dio, quello che guadagnato ho partito per mezzo, la mia metà convertendo nei miei bisogni, l'altra metà dando loro. E di ciò, ma sì bene il mio creatore aiutato, che io ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei. Bene, hai fatto. Ma come? Ti sei tu spesso adirato? Cotesto, vi dico io bene che io ho molto spesso fatto. E chi se ne potrebbe tenere, veggendo tutto il dì gli uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di Dio, non temere i suoi giudici? Egli sono state assai volte il dì che io vorrei piuttosto essere stato morto che vivo, veggendo i giovani andar dietro alle vanità e udendogli giurare e spergiurare, andare alle taverne, non visitar le chiese e seguir piuttosto le vie del mondo che quella di Dio. Figlio mio, cotesta e buona ira, né io per me te ne saprei penitenza imporre. Ma per alcun caso avrebbeti l'ira potuto inducere a fare alcuno omicidio, o a dire villania a persona, o a fare alcuna altra ingiuria? Oimè, messere, o voi mi parete uomo di Dio, come dite voi coteste parole? O se io avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque se, l'una delle cose che voi dite, credete voi che io creda che Iddio m'avesse tanto sostenuto? O coteste son cose da farle gli scherani e i rei uomini, de quali qualunque ora io n'ho mai veduto alcuno, sempre ho detto, va, che Iddio ti converta. Or, mi di, figliuol mio, che benedetto sei tu da Dio. Hai tu mai testimonianza niuna falsa detta contra alcuno, o detto male d'altrui, o tolte dell'altrui cose senza piacere di colui di cui sono? Mai, messer, sì, che io ho detto male d'altrui, perciò che io ebbi già un mio vicino che al maggior torto del mondo non faceva altro che batter la moglie, sicché io dissi una volta male di lui agli parenti della moglie, sì gran pietà mi venne di quella cattivella, la quale egli ogni volta che bevuto avea, troppo conciava come Dio bel dica. Orbene, tu mi di che sei stato mercatante. Ingannasti tu mai persona così come fanno i mercatanti? Gnaffè, messer, sì. Ma io non so chi egli si fu, se no che uno, avendomi recati denari che egli mi doveva dare di panno che io gli avea venduto, e io messigli in una mia cassa senza annoverare, ivi bene a un mese, trovai che gli erano quattro piccioli, più che esser non doveano, perché non rivedendo colui e avendogli serbati bene uno anno per rendergliele, io gli diedi per l'amor di Dio. Cotesta fu piccola cosa, e facesti bene a farne quello che ne facesti. E oltre a questo, il domandò il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispose a questo modo, e volendo egli già procedere alla absoluzione, disse Ser Ciappelletti: Messere, io ho ancora alcun peccato che io non v'ho detto. Il frate il domandò quale, e egli disse: Io mi ricordo che io feci al fante mio un sabato dopo nona spazzare la casa, e non ebbi alla santa domenica quella reverenza che io dovea. Oh, figlio mio, cotesta è legger cosa. No, non dite legger cosa, che la domenica è troppo da onorare, però che in così fatto di risuscitò da morte a vita il nostro Signore. Oh, altro hai tu fatto? Messer sì, che io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio. Figlio mio, cotesta non è cosa da curarsene. Noi che siamo religiosi, tutto il dì vi sputiamo. E voi fate gran villania, perciò che niuna cosa si convien tener netta come il santo tempio nel quale si rende sacrificio a Dio. E in breve, de così fatti, ne gli disse molti. E ultimamente cominciò a sospirare e appresso a piagner forte, come colui che sapeva troppo ben fare quando voleva. Disse il santo frate: Figliol mio, che hai tu? Oimè, messere, che un peccato m'è rimaso, del quale io non mi confessai mai. Sì, gran vergogna ho di doverlo dire, e ogni volta che io me ne ricordo, piango, come voi vedete, e parmi esser molto certo che Iddio mai non avrà misericordia di me per questo peccato. Va via, figliuolo, che è ciò che tu di? Se tutti i peccati che furono mai fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uomini mentre che il mondo durerà, fosser tutti in uno uom solo, e egli ne fosse pentuto e contrito, come io veggio te, sì è tanta la benignità e la misericordia di Dio, che confessandogli egli gliene perdonerebbe liberamente, e perciò dillo sicuramente. Oimè, padre mio, il mio è troppo gran peccato, e appena posso credere, se i vostri prieghi non ci si adoperano, che egli mi debba mai da Dio esser perdonato. Dillo sicuramente, che io ti prometto di pregare Iddio per te. Ser Ciappelletto pur piagnea e nul dicea, e il frate pure il confortava a dire, ma poi che Ser Ciappelletto piagnendo ebbe un grandissimo pezzo tenuto il frate così sospeso, egli gittò un gran sospiro e disse: oh, padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Iddio per me, e io il vi dirò. Sappiate che quando io era piccolino, io bestemmiai una volta la mamma mia. Oh, figliuol mio, or parti questo così gran peccato. Gli uomini bestemmiano tutto il giorno Iddio, e sì, perdona egli volentieri a chi si pente d'averlo bestemmiato. E tu non credi che egli perdoni a te questo? Oh, non piagner, confortati, che fermamente, se tu fossi stato un di quegli che il posero in croce, avendo la contrizione che io ti veggio, sì, ti perdonerebbe egli. Ohimè, padre mio, che dite voi? La mamma mia, dolce, che mi portò in corpo 9 mesi il dì e la notte, e portòmi in collo più di 100 volte. Troppo feci male a bestemmiarla. E troppo è gran peccato. E se voi non pregate Iddio per me, egli non mi sarà perdonato. Veggendo il frate non essere altro restato a dire a ser Ciappelletto, gli fece l'absoluzione e diedegli la sua benedizione. Avendolo per santissimo uomo, siccome colui che pienamente credeva esser vero ciò che ser Ciappelletto aveva detto. E chi sarebbe colui che non credesse, veggendo uno uomo in caso di morte, dir così? E poi, dopo tutto questo, gli disse: ser Ciappelletto, con l'aiuto di Dio, voi sarete tosto sano. Ma seppure avvenisse che Dio, la vostra benedetta e ben disposta anima, chiamasse a sé, piacevi egli che il vostro corpo sia seppellito al nostro luogo? Messer, sì. Anzi, non vorrei io essere altrove, poscia che voi m'avete promesso di pregare Iddio per me, senza che io ho avuta sempre special divozione al vostro ordine, e perciò vi prego che, come voi al vostro luogo sarete, facciate che a me venga quel veracissimo corpo di Cristo, il quale voi la mattina sopra l'altare consecrate, perciò che, come che io degno non ne sia, io intendo, con la vostra licenza, di prenderlo e appresso la santa e ultima unzione, a ciò che io, se vivuto, son come peccatore, almeno muoia come cristiano. Adriano. Il santo uomo disse che molto gli piaceva e che egli diceva bene, e farebbe che di presente gli sarebbe apportato. E così fu. I due fratelli, li quali dubitavan forte non ser Ciappelletto gli ingannasse, s'eran posti appresso a un tavolato, il quale la camera dove ser Ciappelletto giaceva dividea da un'altra, e ascoltando leggermente udivano e intendevano ciò che ser Ciappelletto al frate diceva. E avevano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo le cose le quali egli confessava d'aver fatte, che quasi scoppiavano, e fra sé talora dicevano. Che uomo è costui, il quale né vecchiezza, né infermità, né paura di morte, alla qual si vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi al giudicio del quale, di cui a picciola ora s'aspetta di dover essere, dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere. Né far che egli così non voglia morire come egli è vivuto. Ma pur vedendo che si aveva detto che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente del rimaso si curarono. Ser Ciappelletto poco appresso si comunicò e, peggiorando senza modo, ebbe l'ultima unzione e poco passato vespro, quel dì stesso che la buona confessione fatta avea, si morì. Per la qualcosa li due fratelli, ordinato di quello di lui medesimo, come egli fosse onorevolemente seppellito, e mandatolo a dire al luogo dei frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia secondo l'usanza e la mattina per lo corpo, ogni cosa a ciò opportuna dispuosero. Il santo frate, che confessato l'avea, udendo che egli era trapassato, fu insieme col priore del luogo, e, fatto sonare a capitolo, agli frati ragunati in quello, mostrò ser Ciappelletto essere stato santo uomo, secondo che per la sua confessione conceputo avea. E, sperando per lui Domenedio dovere molti miracoli dimostrare, persuadette loro che con grandissima reverenzia e divozione quello corpo si dovesse ricevere. Alla qualcosa il priore e gli altri frati creduli s'accordarono. E la sera, andati tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto giaceva, soppresso fecero una grande e solenne vigilia, e la mattina tutti vestiti co camisci e co pieviali, con li libri in mano e con le croci innanzi cantando andaron per questo corpo, e con grandissima festa e solennità il recarono alla lor chiesa, seguendo quasi tutto il popolo della città, uomini e donne. E nella chiesa apostolo il santo frate, che confessato la via, salito in sul Pergamo, di lui cominciò e della sua vita, dei suoi digiuni, della sua virginità, della sua semplicità e innocenza e santità, meravigliose cose a predicare, tra l'altre cose narrando quello che ser Ciappelletto per lo suo maggior peccato piangendo gli avea confessato, e come esso appena gli avea potuto metter nel capo che Iddio gliele dovesse perdonare, da questo volgendosi a riprendere il popolo che ascoltava, dicendo: «E voi, maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si volge tra piedi, bestemmiate di Dio e la madre e tutta la corte del paradiso!» E, oltre a queste, molte altre cose disse della sua lealtà e della sua purità. E, in breve, con le sue parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera fede, si il mise nel capo e nella divozione di tutti coloro che v'erano, che, poiché fornito fu l'ufficio, con la maggior calca del mondo da tutti fu andato a basciargli i piedi e le mani, e tutti i panni gli furono indosso stracciati, tenendosi beato chi pure un poco di quegli potesse avere. E convenne che tutto il giorno così fosse tenuto, a ciò che da tutti potesse essere veduto e visitato. Poi, l'avveniente notte, in una arca di marmo seppellito fu onorevolmente in una cappella. E a mano, il dì seguente vi cominciarono le genti a andare e a accender lumi e a adorarlo e per conseguente a botarsi e a appiccarvi le immagini della cera secondo la professione fatta. E intanto crebbe la fama della sua santità e divozione a lui che quasi niuno era che in alcuna avversità fosse che a altro santo che a lui si buttasse. E chiamarono e chiamano San Ciappelletto. E affermano molti miracoli Iddio aver mostrati per lui e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda a lui. Così adunque visse e morì Ser Cepparello da Prato e santo divenne, come avete udito. Il quale, negar non voglio esser possibile, lui esser beato nella presenza di Dio, perciò che, come che la sua vita fosse scellerata e malvagia, egli poté in sullo stremo aver sì fatta contrizione che per avventura Iddio ebbe misericordia di lui e nel suo regno il ricevette, ma perciò che questo n'è occulto, secondo quello che ne può apparire ragiono e dico, costui piuttosto dovere essere nelle mani del diavolo in perdizione che in paradiso. E se così è, grandissima si può la benignità di Dio conoscere verso noi, la quale non al nostro errore, ma alla purità della fe, riguardando, così facendo, noi nostro mezzano, un suo nemico, amico credendolo, ci esaudisce, come se a uno veramente santo, per mezzano della sua grazia, ricorressimo. E perciò, a ciò che noi per la sua grazia nelle presenti avversità e in questa compagnia così lieta siamo sani e salvi servati, lodando il suo nome nel quale cominciata l'abbiamo, lui in reverenza avendo, nei nostri bisogni gli ci raccomanderemo, sicurissimi d'essere uditi. E qui si tacque. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.